nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, la trasmissione che si occupa di donne, di lavoro e di tutto il tema che scandisce i temi che scandiscono la nostra settimana. Questa settimana si è molto parlato di Hillary Clinton per le sue questioni di salute che metterebbero in dubbio la possibilità di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti. E però certo il fatto che Hillary abbia problemi di salute e quasi 70 anni mi ha fatto venire in mente che forse un coetaneo maschio sarebbe stato valutato in maniera diversa. Mi chiedo anche se queste 60-70 anni dalle quali si pretende bellezza, forma fisica splendente, massima energia, non siano un po', come dire, sotto stress e stressate da anni. Perché da un lato devi essere MILF, cioè hai 50, 55 anni, 65 anni, ma devi sembrare una trentenne e possibilmente avere un fidanzato con 30 anni di meno, o almeno questa è la vulgata di certa cultura pop. E dall'altra, se non sei così, se per esempio te ne freghi, come è successo a Romina Power, che è stata fotografata in bikini nello splendore della sua taglia, non so, forse, non voglio dire se 48 o che, ecco, allora sei messa in croce perché non hai un fisico perfetto. Voglio proprio sapere cosa pensa l'agente provocatore che è con noi questa domenica, il titolare del più popolare sito italiano inventato da lui e ora anche con grande successo su Sky Arte con una sua trasmissione. Insomma, Roberto D'Agostino, buona domenica Roberto. Buona domenica a tutti. E Romina Power nello splendore dei suoi chili in più, massacrata perché una foto su Novella 2000 l'ha mostrata perché così com'è. Eppure lei è un modello di successo, è tornata alla fama, è riuscita in un'operazione invidiabile rimettere insieme il team professionale col marito. Insomma, è un esempio di successo, perché prendersela con i suoi chili? Beh, quello è un classico però dell'altra faccia della popolarità, del divismo, cioè non puoi pretendere di, sai benissimo quando eri in vetta, cioè arriva il piatto della bilancia dove da una parte stanno tutte le glorie, e la gente pazza di te, i vantaggi, oltre a quelli economici anche quelli sociali, d'altra parte questi vantaggi, questi privilegi in qualche modo sono sono pagati, devi pagare mantenendo un certo stile, mantenendo un corpo che non sia quello abbandonato a se stesso, diciamo, eccetera eccetera, cioè non puoi permetterti, tu essendo persona conosciuta, di aspettare, che so, il semaforo col dito nel naso, non lo puoi fare. E però cioè, se hai 64 anni, guarda, se hai 64 anni come Romina Power, hai un bellissimo viso, puoi anche dire ma chi se ne frega se peso 20 kg di più. Non lo puoi dire, no, questo caro non lo puoi dire. Se tu hai tutti i tuoi privilegi, i tuoi cose, neanche comportate, sei una persona sociale, pubblica, quando diventi una persona pubblica ti devi mettere in testa, ma poi ficcartelo con martello, che non puoi comportarti come i comuni mortali che campano con 1500 euro al mese, no, tu sei una che 1500 al mese, 1500 euro li prendi dopo 10 minuti, allora mi fai anche il favore che devi comportarti anche a livello fisico in una certa maniera, perché poi sali su un palco e incassi dei cachet notevolissimi. Tornando con Albano a fare quelle canzoncine, loro è una ditta che poi c'è il commercialista che gli dà i guadagni. Ora tutti questi cosiddetti famosi devono anche capire che c'è l'altra faccia. L'altra faccia poi che ti chiede un comportamento, ma anche, anche uno stile. Cioè, a parte che uno poi diventa ciccione, quelle robe lì è normale. Se, se, no? se diventa ciccione però un maschio, io, però c'è meno scandalo. Ma ti ha fatto carne di porco con Ferrara da sempre, con tante, con tutte le panze e contropanze dei maschi, non finisce mai. Ma è logico, ma anche quello. Cioè, appena uno, un attore, arrivano le maniglie dell'amore, ma quei rodole, le zuave, come dicono da certe parti, e le zuave le panze, è chiaro che poi lo devi pagare, è normale, capito? Cioè, e non devi vai dire, ma io ho 68 anni, me posso permettere la pancetta, ok, la pancetta se fai il pizzicarolo, ma dato che tu vai a fare il cinema, vai a fare, caro, devi stare a stecchetto a dieta, non ti attaccare alla bottiglia del vino, cerca un attimo di fare una vita. E poi quello rientra un po' in quel rapporto sadomaso che c'è tra il pubblico e i cosiddetti celebrità. Non potete pensare che non si paga dazio. Tutti devono pagare dazio in questo mondo. Però Barack Obama disse qualche tempo fa che quando era in competizione con Hillary Clinton, perché tutti e due correvano per la presidenza, lo svantaggio di Hillary è che si doveva svegliare un'ora prima di lui, perché lei doveva avere i capelli in ordine e quindi avere il parrucchiere. Lui questo problema non ce l'aveva. È un tema di perdita ma di tempo. Ma piantata, quello è il fatto che uno lo voleva andare lì belle, truccate. La verità è che quando apre bocca Hillary è una cosa, quando apriva la bocca Obama è un'altra. Obama è il più grande intrattenitore. Secondo me è un po' fare delirio a Hollywood come a Broadway. Il problema fondamentale è che chi ascolta Obama sente uno un leader, sente uno che ha una capacità oratoria strepitosa. Forse Bill Clinton poteva stare vicino a Obama. Obama è uno che su un palcoscenico è stravolgente. Se c'è qualcosa invece che è veleno per il botteghino, è veleno per le nostre orecchie, è Hillary. Hillary, a detta di tutti, non è una capace di incantare una platea. Il problema non è che sta un'ora a truccarsi, è il problema che dovrebbe stare un'ora a truccarsi il cervello, perché dal cervello parte lo stimolo per aprire bocca e dire qualcosa. Beh, però la non potete mettere assolutamente questa storia che è donna e quello è uomo, no. Se una è ridicola e quell'altra è più intelligente, non c'è niente da fare. Può capitare che un uomo sia più intelligente di una donna, non è che stare sempre lì a frignare. Credo che sia assolutamente così, hai ragione, può capitare, capita ogni tanto. Comunque nella questione diciamo specifica torneremo a occuparci di Hillary Clinton e a seguire la campagna elettorale magari in una chiave diversa che non sia quella del suo parrucchiere. Intanto vediamo come vanno le sue condizioni di salute. Io ringrazio Roberto D'Agostino per essere stato con noi come agente provocatore questa domenica e ti diamo appuntamento a una domenica tra poche settimane quando vorrai. Grazie. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Nessuna è perfetta. Allora, dicevamo col nostro agente provocatore che da Hillary Clinton con l'obbligo del parrucchiere sempre, perché una candidata alla Casa Bianca va valutata anche per la pettinatura, ma era così anche quando era First Lady, da Hillary Clinton, dicevamo, con tutti i problemi che poi sono legati a cose ben più solide che la pettinatura, a Romina Power, che a 64 anni è stata fotografata in bikini e si è attirata molte critiche. Ecco, c'è una particolare, direi ossessiva attenzione per le over 50 se non sono sempre impeccabili. Da un lato si chiede che siano MILF sexy con il fidanzato trentenne, dall'altro se sgarrano, guai. E allora, il momento della nostra Sunday Girl, una donna molto bella. Buona domenica, Simona Izzo, bionda, bella, attrice, doppiatrice, regista, mamma, nonna, e con nessuna intenzione né di diventare, come dire, una Christine Lagarde con i capelli bianchi, tutta elegante, perfettina, ma dall'altro certamente non di farsi mettere in croce se la mattina si mangia il cornetto col cappuccino. Quello che ho fatto adesso. I biscotti integrali però valgono quanto, quando vai a vedere le calorie, valgono quanto un cornetto. Quindi ma insomma, una donna over 50 sta in questa strettoia. O io sono over 60, ecco, però, over 60, perfetto, con molta fierezza. E da una, soprattutto nel mondo dello spettacolo, diceva prima Roberto D'Agostino, si pretende che sia perfetta. Hai successo, sei nel mondo dello spettacolo, allora devi stare a dieta, diceva lui, il nostro agente provocatore. Ma lui non sta mai a dieta. Lui ha detto la più bella battuta del mondo, io lo adoro, perché è cattivo, ma è adorabilmente cattivo. Sì, lui però ha detto, alle donne si chiede. Te la ricordi quella su Marta, che non c'è più, ma Marta la diceva lei. E diceva: non mi faccio baciare dalla Marzotto se non mi attacca le rughe. Ho capito, però c'è un'esigenza di perfezione che si richiede alle cinquantenni, alle sessantenni, alle settantenni, che non si chiede ai loro coetanei. Sì, anche sì, nel ma mondo non è dello che spettacolo. Ce la chiedono, no, non sono i maschi a chiedercela, non è il mondo, sono le donne che vogliono la perfezione, e hanno ragione. Io soffro di sirenite, se vuoi, sono una vecchia sirena, cioè io non smetterò mai di sedurre mio nipote, il lattaio perché mi porti il latte prima, l'idraulico perché venga a casa. Io esercito la mia seduzione, il mio potere, e ne sono felicissima, e difenderò per sempre questa posizione di accanimento, di ossessione alla bellezza. Ma è si giusto? Perde un sacco di tempo però, perché sei bionda e immagino tu ti sottoponga, sono, certo. Ti sottoponga, tingo, sì. Ecco, a delle lunghe ore da parrucchiere, e poi i massaggi e la forma fisica, che va benissimo, è anche un fatto di salute, ma comunque c'è un investimento di tempo oltre che di denaro che non tutte si possono permettere. La domanda è: ma non si smette mai? Probabilmente Romina Power ha detto: sai che c'è, io ho successo, sono tornata a cantare col mio ex marito e siamo sulla cresta dell'onda, ho una bellissima faccia, se anche peso un po' di chili in più, ma chi se ne frega. Ecco, tu il chi se ne frega non lo contempli invece? No, io non lo contemplo, anche se io ho dei chili in più. Sono messi un pochino meglio di Romina, perché poi io non mi metto il bikini e quindi sono più furba. Io, il mio titolo è Una vita col pareo. Io faccio il bagno col pareo, un pareo molto sexy che si attacca alle cosce e che però in qualche modo, diciamo, cela o perlomeno tenta di celare i danni del tempo. Detto questo, io non mi metto il bikini neanche nel mio giardino. Faccio il bagno coperto anche in piscina, cioè so che la mia età ha delle, diciamo così, adesso io prima mi vestivo per vestirmi, ora mi vesto per coprire le parti sbagliate e mettere in evidenza cose giuste. Quando tu dici però, Maria, perdere tempo, davvero pensi che farsi massaggiare, tingersi i capelli sia una perdita di tempo? È un momento per fortuna che ci abbiamo, che me lo prendo. Io adesso sto con una massaggiatrice alle 10 del mattino, non mi sta facendo, mi sta massaggiando mentre tu parli, e poi intanto correggo un copione, e poi quello è il momento della concentrazione di una donna, è lì che finalmente dice: oh, vado al parrucchiere, nessuno ti può dire nulla. Senti, la business editor del Financial Times, Sarah Gordon, ha scritto un'intera pagina sul suo giornale annunciando di aver deciso di lasciarsi i capelli bianchi, un taglio molto carino, lei è una donna molto bella, ma ha deciso di tenersi i capelli bianchi perché è più pratico, è più salutare, perché non ti metti delle tinture che non si sa mai che cosa succede sui capelli, e a chi le chiedeva non hai paura di sentirti vecchia ha detto assolutamente no. Sbagliato? Ha sbagliato lei? No, il bianco dona. Il bianco quando è molto chiaro, per esempio il mio attuale marito, spero ultimo, Tognazzi, sì. Ha un bianco meraviglioso, candido, che magari ce l'avessi io. Purtroppo io ho il grigio, se mi lasciassi il mio colore ci avrei il grigio. Poi io dico una cosa, a parte che non si è mai troppo bionde, non si è mai troppo magre, non si è mai troppo perfette, io ho fatto 2 lifting, li ho dichiarati, mi hanno massacrata. Sono nata da una mamma che quando aveva 40 anni mi ha detto puoi venire con me, dove mamma? Dal chirurgo plastico. E che devo fare? Sì. E lei mi ha detto no, devi fare il modello. Come? La modella degli occhi, io faccio vedere i tuoi occhi, mi faccio vedere. Mia madre l'ultimo lifting l'ha fatto 8 anni fa. Allora il lifting non serve a migliorare il viso, serve, e non pensare che sia fanatica, c'è uno studio antropologico su questo, c'è uno studio medico su questo. Il lifting serve a far sì che io cammini meglio, perché mi adeguo al mio viso, perché la vecchiaia è un'eccedenza. Io adesso ho un gomito che non sai quanto mi dà fastidio, quando lo pizzico la vecchiaia va molto nel gomito. Io ho scritto una commedia su questo. Praticamente il gomito scende, sai. Non so, tu hai ancora dei bei gomiti, i miei gomiti sono orribili. Allora io voglio andare a vedere se c'è Flavio Saccomanno, il mio chirurgo plastico, se mi può mettere a posto il gomito. Sai quante donne si sono fatte le braccia? Fanno bene, le braccia devono essere toniche. Però non c'è una... ripeto, al di là di quanto poi c'è un investimento economico che non tutte possono sopportare, ma non vabbè, c'è si fa un mutuo, come si fa mutuo per una casa si fa mutuo anche non per c'è un po' di insisto dispersione di tempo e di energie, nel senso che se costa tanto la manutenzione del proprio corpo, certamente ci deve essere un ritorno psicologico per cui vale la pena farlo, ma magari io non vado dallo psicanalista, per esempio. Non prendo farmaci. Ah, ecco. Cioè tu dici c'è un risparmio e un investimento che torna, nel senso di un equilibrio personale. Non vado dalle chiromanti. Penso quanto risparmio. Perché sono contenta, perché quando mi guardo allo specchio, certo mi devo anche saper guardare, non è che tu ti piazzi davanti allo specchio con le luci sbagliate. Io mi guardo, sono carina. Poi magari quando mi vedono dal vivo gli altri, non è che sono sempre il movimento, il problema è il movimento, perché tu quando sei ferma sei molto figa, facendo il regista io queste cose le so bene, un'attrice non la metto mai in movimento, se devo fare un primo piano di bellezza la fermo. Allora, detto questo, hai ragione, costa, è un investimento, ma sai io quando vado a dormire con mio marito e mi spoglio, siccome io non mi sono rifatta le tette, non mi sono rifatta il culo, ma magari potessi, però lì soffro un po', però quando mi metto una bella camicia da notte e lui mi guarda in faccia, io mi sono aggiustata la mia faccia e mi sono adeguata a Simona che ha 3 nipoti, se vuoi ti dico il mio ultimo aforisma che ho scritto ai miei nipoti. Ah sì, volentieri. Ma poi nonna si è paralizzata, ma tranquilli, solo sulla fronte ha fatto il botox, ci vediamo domani. Fa ridere, però questa è quello, la civiltà mediatica, questo ci chiede, ma perché Cleopatra non si truccava? Però Simona, un punto sul quale vorrei il tuo diciamo il tuo commento, fanatico parere, diciamo anche così. Il tuo fanatico parere è la libertà di chi si sottrae all'obbligo della bellezza a tutti i costi. Ripeto, un conto è tenersi in forma per salute, un conto è essere eleganti e beh, accettate, certo, però nel caso mi viene ancora in mente la foto di Romina Power con la simpatica maschera e il boccaglio, il suo bikini, bellissima nella sua... Non trovi che sia un trattamento lievemente come dire, facile? No, quello dell'andare a beccare la signora di 60 anni, anche se è famosa e anche se è, mentre l'omologo maschio 60enne si dà per scontato che gliene freghi niente della pancia. Ma poveretti, sono sfortunati, infatti non se ne occupano della loro pancia, e poi il grasso sopra la cintura dei maschi, tu lo sai che è più pericoloso che per noi, gli viene un infarto e zac, moriano. Allora io dico anche ai maschi, curatevi. Detto questo, lo sappiamo che il maschio purtroppo, potendo continuare a procreare, perché questo è il problema, la nostra grande, se vuoi, disparità, queste pari opportunità, non sono pari opportunità sessuali, perché mio marito potrebbe ancora fare un figlio se volesse, io non lo posso fare, è questo che dà la... Infatti io consiglio a tutte le donne di espiantare gli ovuli, come fanno le americane per poter avere un quindi figlio. Quindi tu non pensi che ci sia una stagione per tutto, cioè una stagione per diventare madre, e restando al tema di questa puntata, c'è anche una stagione per seguire diete ossessive e che insomma dopo una certa età una può anche tenersi, non dico 20, sì, ma vedi, 5 kg o 6 kg in più, no? Scusami, però io sono appena andata da un medico che mi ha detto: cara Simona, un medico famoso che cura i calciatori, o dimagrisci o ti faccio una protesi al ginocchio, vedi te, che mi hai rotto le palle, sei una cicciona e non legge più. E io ho detto: ok, professore, ma tu perché non dimagrisci? E lui mi ha detto: perché io non mi devo fare il ginocchio. Allora, questo vuol dire che la cura... tutti dicono ossessiva, io adesso penso che sto aprendo un centro per le donne dove si parlerà di bellezza, il tema che mi dici tu, di ossessione, insieme alla Giorlandino, che è lei di sanità, la chiamano a Roma, proprio per questo, per far sì che la nostra società, che richiede la bellezza perché è una società per immagini, possa capire anche perché c'è questa ossessione. Ma la signora Clinton, che poi per un po' di tosse, poveretta, viene messa in croce, quello sarebbe successo anche ad un uomo, no? Certo, però come diceva Barack Obama, lei si doveva svegliare un'ora prima di lui quando erano in competizione, perché lei doveva andare dal parrucchiere e lui no. È vero, anche perché ha pochi capelli, però detto questo, è fortunata questa donna che può farlo, perché le donne accudiscono i loro figli, lavano le cacche, mettono in bocca ai padri il cibo quando sono anziani, certo. Noi abbiamo questa sorta di accudimento che finalmente non si rivolge solo più agli altri, ma anche a noi stesse. E con questo pensiero è bello, col pensiero di prendersi cura anche di sé. Fammi finire una cosa, perché lo sai che io sono una logorroica, sono insopportabile, lo so, però ti devo dire una cosa. Io penso che quella signora che si vuole tenere i capelli bianchi, beata lei se ce l'ha davvero candidi, che vuole la pancia, che non gliene frega un cazzo se le cosce si sono ammosciate perché le si è rassodato il cervello, perché questa è la forza delle donne. Ci si ammosciano le cosce, ma ci si rassoda il cervello, perché con l'età a noi ci si rassoda, mentre i maschi, purtroppo, governati dal testosterone che impazzisce, vanno poi a caccia di guai. Noi no. E su questa ottimistica e devo dire in qualche modo condivisibile opinione di Simona Izzo, noi la salutiamo, ti auguro una buona domenica e un eccellente massaggio. Tu sei una under 50 molto figa, ricordo. Se no. Ciao, grazie. Da lunedì 26 settembre dalle 9 alle 10:30 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24 di Giovanni Minoli dal lunedì al venerdì alle 9 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 e questo, lo sapete, è il momento della domanda. Domanda che io mi aspetto arrivi anche da voi. I temi possono essere quelli relativi al day by day sul luogo di lavoro, problemi che sono capitati un po' a tutti e che però è sempre un rinnovato interesse affrontarli. Bene, l'indirizzo mail, lo sapete, è nessunaperfetta@radio24.it e potete commentare quello che dicono i nostri esperti o anche il tema che affrontiamo con loro su Twitter usando l'hashtag nessunaperfetta e su Facebook. Abbiamo parlato finora di over 50 e bellezza, l'esigenza di essere magre, perfette, inappuntabili. Ed è un po' il tema che ha influenzato l'estate di questa nostra ascoltatrice. Volevo scrivervi da tempo, ma pensavo che fosse una questione troppo frivola. Dopo averci pensato un po', prendo coraggio. Ho 53 anni e da circa 20 lavoro nello stesso ambiente. La mia colpa? Prima dell'estate ho deciso che una volta per tutte volevo essere libera, non sottopormi più allo stress della tinta e andare al mare con i miei bellissimi capelli bianchi. Sono tornata dalle vacanze abbronzata e col mio nuovo taglio e capelli candidi come Christine Lagarde. Ma a differenza di Christine Lagarde, le mie colleghe non mi hanno fatto i complimenti perché sembravo più elegante, mi hanno detto: ma non ti sembra di essere invecchiata tutto ad un colpo? La domanda è una colpa volersi liberare della schiavitù della tintura e sentirsi in forma coi capelli bianchi? Valeria. Laura Donnini è una donna, non diremo trentenne, ma che comunque potrebbe tranquillamente essere trentenne, una donna curatissima, l'ex amministratore delegato di RCS Libri, che di libri e di donne si è occupata molto, e oggi presidente di News 3.0, il gruppo che edita Lettera 43, letteradonna.it e Pagina 99. Laura Donnini non ha mai preso in considerazione l'idea di lasciare che i suoi capelli, per ora scurissimi e bellissimi, rimanessero bianchi, o no? Buongiorno a tutti. Beh, allora io parto da una situazione abbastanza particolare, perché mio padre all'età di 25 anni era non sale e pepe, ma molto sale e poco pepe, e quindi io ho ereditato da lui una capigliatura molto molto, diciamo, chiara, cioè sono scura ma con una ricrescita significativa da molti molti anni. Allora io ritengo che la libertà di ogni donna venga per prima, al primo posto, e quindi mi sembra sin ridicolo, se vogliamo discutere del fatto se sia meglio o meno tingersi i capelli, perché lo ritengo un atto di libertà individuale. Io personalmente non ho mai pensato di lasciarmi i capelli bianchi, anzi, ma perché ritengo oggettivamente che i capelli bianchi invecchino, e quindi in una società che non impone regole di bellezza, ma che comunque ci vede impegnate tutti i giorni in contesti, io perlomeno in un contesto di azienda, per cui insomma l'essere curati è un requisito, io ho sempre ritenuto di voler dimostrare la mia età, ma non certo di sembrare più vecchia di quello. Eppure una volta Rossana Rossanda, autorevole intellettuale, dirigente politica, fondatrice del quotidiano Il Manifesto, disse: mi vennero i capelli bianchi in una notte, e da allora i dirigenti del PC presero a considerarmi. Christine Lagarde è molto elegante e molto autorevole con i suoi capelli bianchi. Il punto è: possiamo definirci autorevoli in base alla pettinatura, no, al colore del capello? Io la penso in maniera diversa, e cioè che queste persone che ha citato erano già autorevoli, avevano già un ruolo molto importante, per cui la capigliatura non è certo il primo elemento di attenzione, e forse può confermare un certo tipo di autorevolezza e di esperienza. Quando si parla invece di donne normali che decidono di lasciarsi i capelli bianchi senza avere certi ruoli, il rischio di apparire un po' più vecchi di quello che si è, un po' più trasandati, esiste. Quindi ancora una volta è una scelta. Se si lavora in contesti giovani o comunque molto dinamici, dove ci vuole un secondo a essere considerati obsoleti, secondo me il capello riveste un ruolo importante. Si potrebbe aprire, e concludo, una discussione se sia opportuno o meno che le donne si trucchino o non si trucchino, si ritocchino o non si ritocchino. Allora, ci sono delle bellissime donne che hanno molto più di 50 anni, o comunque insomma tra i 50 e i 60, sono attrici bellissime, che hanno delle capigliature meravigliose e non sono più o meno autorevoli a seconda della tinta. Ecco, citavamo le attrici, Helen Mirren, che ha conosciuto una fama mondiale dopo i 50 anni, è un'attrice di grande bravura ed ha i capelli dichiaratamente bianchi. Di Christine Lagarde abbiamo detto, ho citato la giornalista del Financial Times, Sarah Gordon, che ha scritto un'intera pagina sul Financial Times Weekend per spiegare il perché di questa decisione. E in tutta questa puntata, attorno al tema della libertà di presentarsi in maniera più autentica dopo i 50 anni, è ruotata un po' tutta la nostra puntata. Giulia rivendica questa libertà, ma non mi pare che si proponga di lasciarsi andare o di diventare sciatta. Ci sono delle insicurezze, Laura Donnini, delle insicurezze sociali, per cui il tabù del capello bianco è forse la cosa più difficile da superare. Cioè, a 60 anni Romina Power si tiene i chili che ha, ma ha dei bellissimi capelli biondi, ben tinti, e ha una faccia bellissima, perché giustamente se si presentasse sul palco a cantare con Albano col capello bianco non avrebbe lo stesso impatto che ha. Quindi il capello bianco è l'ultimo tabù. Sì, secondo me è l'ultimo tabù, perché volenti o nolenti è la cosa più evidente che abbiamo e che ci contraddistingue. Per cui ben venga la libertà, è un gesto molto coraggioso, la libertà da rivendicare esattamente quella di essere se stessi, dipende ognuno come si sente meglio. Io ribadisco, non so se avrei il coraggio, se avrò il coraggio nei prossimi anni di farlo. Ho una nonna che è mancata pochi anni fa, che ha 85 anni, aveva i capelli tinti ed era molto orgogliosa del suo look, eppure non era né una donna d'azienda né una donna che faceva gran vita sociale. Allora ognuno deve fare quello che ritiene. È indubbio che quando uno si presenta con i capelli bianchi l'effetto shock, diciamo, di chi la circonda è inevitabile, non ci si deve sorprendere, però bisogna avere il coraggio fino in fondo di fregarsene. Detto ciò, il capello bianco secondo me impone una cura ancora maggiore, perché il primo impatto sarà quello di una persona che non è più giovane, e quindi poi si darà forse anche più peso a come è vestita, se è in forma, se ha qualche chilo di troppo oppure no. Io credo che chi ci ascolta ha capito che tutto questo nostro parlare di capelli bianchi che si accettano e si propongono, anzi quasi come sfida, o di chili in più che si decide di mantenere perché è una scelta volerli mantenere, ecco, questa riflessione di questa puntata non vuole avere la pretesa certamente di offrire una soluzione, perché l'abbiamo detto per tutta la puntata, si tratta di scelte individuali, ma prende atto del fatto che solo parlarne, solo discuterne, solo mettere in campo il dubbio significa che tutto sommato le donne stanno prendendo una grande libertà anche rispetto a certi tabù, perché discutere di tenersi i capelli bianchi è di farlo però con una scelta quasi di seduzione, di eleganza. Ricordo la Lagarde, ricordo Christine, ricordo Helen Mirren. È una scelta di sicurezza, di coraggio, come diceva Laura Donnini, non di rinuncia. È coraggio e non rinuncia, ed è per questo che ne stiamo parlando questa mattina. Io ringrazio Laura Donnini e credo che sulla parola coraggio, vero, potremmo lasciarci. Non è un granché il coraggio del capello bianco, ma noi sappiamo che tra noi e noi ce ne vuole per accettarlo. Esattamente. Grazie a Laura Donnini e buona domenica. Tanto. Grazie. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Nessuna è perfetta. Eccoci l'ultima parte della nostra puntata, è il momento della coach Maria Serena Ciambellotti. Buona domenica. Io vorrei partire subito, Maria Serena, con una domanda che è esattamente quella che ci ha fatto la nostra ascoltatrice. Che messaggio si dà sul luogo di lavoro e anche sul lato privato se a 50 anni circa si decide di tenere i capelli bianchi? È una curati ma bianchi, un gesto coraggioso ma che divide. Buongiorno Maria, ben ritrovata e buona domenica a tutti. Sì, decisamente un gesto coraggioso, mi piace questo aggettivo Maria, proprio perché chi decide per quindi lasciare i propri capelli al naturale, pur in ordine, vuol dire che ha proprio fatto una scelta, quindi si è guardata allo specchio non solo per osservare la ricrescita, ma si è un po' anche guardata ad uno specchio più metaforico, no? Quindi chiedendosi che cosa è importante per me, che cosa voglio comunicare con questa mia decisione. Sicuramente il messaggio che passa, una persona che appunto con coraggio sceglie di lasciarsi i capelli un bel sale pepe o comunque bianchi. No, sale pepe no. Bianchi. Ah no, bianchi, no, sale pepe è un'altra cosa, no, bianchi. Proprio bianchi, sì. Ecco, quindi bianchi. Molto più elegante viene considerato il total white. Indubbiamente. Sceglie di presentarsi al mondo con autenticità, perché fino a prova contraria la natura là ci proietterebbe se noi non intervenissimo con artifici, tinte più o meno naturali. Ma è una scelta di... come dire, sicurezza, un messaggio: sono così sicura di me che mi presento come sono, o è un messaggio che dice I give up, ok, non me ne importa più niente, adesso faccio un po' come mi pare, se vi va bene così, però insomma non ci tengo più tanto, per dirla come dicevano le nostre mamme. Certo. Indubbiamente, come tutti i messaggi, quindi quando si parla di comunicazione, quello che fa la differenza è il come. Quindi se la testa bianca è portata con disinvoltura e con agio e il capello risulta comunque ordinato, la donna rilassata, non dico sicura di sé, ma proprio anche serena nella sua, nel suo occupare lo spazio nel mondo, il messaggio che passerà sarà quello proprio di una donna che ha coraggiosamente intrapreso, coraggiosamente perché è controcorrente, quindi è come un salmone che nuota, no, contro la corrente, certo, ma indubbiamente positivo. Certo, se associato al capello bianco c'è una posizione esistenziale, no, si direbbe in psicologia, quindi una sentirsi giù, sentirsi meno, sentirsi una depressione, a disagio, ecco, o quasi un tratto depressivo, se non addirittura una depressione conclamata, beh certo il messaggio che arriva è di altra natura. Diamo un consiglio a Giulia in finale, la nostra coach come le consiglierebbe di rispondere se nel suo ambiente di lavoro qualcuno le dirà: ma non hai paura di sembrare più vecchia? Allora, le due parole chiave che mi vengono in mente qui sono scelta e rispetto. Scelta nel senso che il messaggio che voglio comunicare è: ho scelto, e quindi no, ogni volta che scegliamo vuol dire che abbiamo fatto una riflessione sui pro e contro, vuol dire che abbiamo le idee chiare, quindi quando una persona ci dice ho scelto, è un messaggio molto forte, quindi questo innanzitutto. E poi rispetto da dedicare sia a chi, nei confronti di chi invece opta per l'abitino strizzato e il tacco 12 a 50 anni, perché in fondo se si sente bene così, buon per lei, e rispetto da esigere, quasi pretendere, per quelle che sono proprio le scelte ragionate, ponderate che una donna coraggiosa quindi ha intrapreso. Ottimo, quindi scelta e rispetto. Grazie a Maria Serena Ciambellotti, la grazie nostra coach di questa domenica, e nel salutare lei saluto anche voi. Buona domenica a voi che ci avete seguito.